Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti da Magazine 24. Come sapete, la rubrica di Radio 24 dedicata ai periodici italiani e stranieri. Questa domenica mattina volevo proporvi una lettura assolutamente diversa dei periodici. Di solito, naturalmente, noi cerchiamo, io e Margherita Ina, Vittorio Mussini, che mi aiutano in questo programma, cerchiamo degli articoli che sono articoli di professionisti, possono essere giornalisti, possono essere degli esperti che vengono sentiti dalle varie testate. Invece questa mattina volevo proporvi un paio di lettere, due o tre lettere, perché spesso i settimanali, i periodici, i mensili ospitano lettere dei lettori che talvolta segnalano dei problemi molto veri o magari aiutano a capire quello che poi ritroviamo negli articoli dei settimanali. Ad esempio, è molto bella secondo me questa lettera che compare su Vanity questa settimana e che è stata scritta da una insegnante, una maestra elementare, che ha questo problema. Sua figlia, 15 anni, è stata bocciata, quindi questa signora si sente giustamente preda dei sensi di colpa. Scrive proprio: io sconfitta alle prese con i sensi di colpa. Spiega un po' che la bocciatura è intervenuta dopo un cambiamento di sede, ma poi scrive: non voglio fare la solita difesa a oltranza del figlio, sono consapevole che poteva fare di più, che non ha capito che la scuola superiore non è la scuola media, doveva accettare prima gli aiuti che le proponevamo. Ma anche la famiglia va in crisi. Hanno un bel dire che deve essere vissuto come un momento di crescita. Una bocciatura è solo una sconfitta di genitore. È vero, non c'è il manuale del bravo genitore, vai avanti per prove ed errori. Per 9 mesi, che strana ironia, lo stesso numero di mesi nei quali eravamo una sola cosa, la sgrido, la metto in punizione, le parlo come se parlare a un 15enne fosse facile. Faccio leva sull'orgoglio, sulla vergogna, la responsabilizzo. E dice: le ho provate tutte, compreso il provare a ignorare i voti, a chiederle del resto, ti sei divertita, che cosa hai fatto a ricreazione. Adesso mi trovo questa lettera in mano, la lettera che appunto dice: con la presente siamo a informare che vostra figlia non è stata ammessa alla classe successiva, e gli sguardi di circostanza di qualcuno attraversati da un lampo fuggevole di soddisfazione. Essendo la signora una maestra, c'è una sorta di rivalsa nel chi vede bocciare la figlia della maestra. Abbiamo 15 giorni per pensare, scrive, pensare cosa fare, ripetere, cambiare completamente, e lei non parla, non dice niente. E allora io leggo Facebook, ascolto le telefonate di nascosto per capirci qualche cosa, e alla fine lo so, sarà un altro terno al lotto. Ecco, questo tipo di lettera magari non è così ricco di informazioni come un articolo, ma forse ha il pregio dell'immediatezza, cioè di restituirci una situazione in modo molto poco mediato, poco raffinato magari, ma molto diretto. E appunto la bocciatura di un figlio è un evento che può provocare diversi problemi. Proprio sulla scuola, però, un'altra lettera, questa volta su Famiglia Cristiana, di un insegnante. Un insegnante che dice: siamo alla fine di un anno scolastico andato male, anzi malissimo. Gli effetti nefasti della riforma si fanno sentire con tagli pesanti e ingiustificati. La mancanza di risorse si riflette non solo sull'insegnamento, ma anche dentro di noi. E ne era normale per noi docenti, prosegue Francesca, che è l'insegnante che scrive, era normale per noi docenti interrogarci sui bisogni dei nostri alunni, sulle loro difficoltà, chiederci se avevamo dato abbastanza. Ora invece, più calano le risorse, più cresce la nostra frustrazione, che scarichiamo sugli alunni, punendoli con il voto di condotta e la bocciatura. La scuola rischia di limitarsi a certificare le difficoltà dei più deboli, stranieri in prima fila, senza chiedersi cosa può dare e fare di più o di meglio. Io non ci sto a fare da anello a questa catena. E allora chiudiamo con una lettera, abbandonando il tema della scuola. La terza lettera che vi segnalo l'ho vista sul venerdì l'avete trovato con Repubblica, appunto, venerdì scorso. C'è Giancarlo Fincato, scrive alla rubrica di Michele Serra, dice: le spese militari crescono con tutti i governi. C'è un tabù nella politica italiana, quello delle spese militari in costante aumento, sia con Prodi che con Berlusconi. Un paese mai aggredito nei suoi 149 anni di vita, forse questa informazione del lettore andrebbe un po' meglio circostanziata, e con numerose guerre di aggressione all'attivo mantiene il più numeroso esercito dell'Europa occidentale. Perché nessuno chiede una revisione di queste spese assurde? La lettera mi ha incuriosito perché ancora su Famiglia Cristiana ho trovato più o meno lo stesso tema, che però con la forza dei numeri ci segnala una realtà leggermente diversa per l'Italia. Il mondo in crisi riempie gli arsenali. È il lavoro presentato da Alberto Chiara su Famiglia Cristiana di questa settimana. Segnala effettivamente che il 2009 è stato un anno record per le spese militari, ma che invece in Italia le spese appunto destinate all'esercito sono in drastica diminuzione. Vi segnalo qualcuna delle cifre. Ci sono ovviamente 10 paesi che assorbono il 75% del totale, alle spalle degli Stati Uniti, che sono i primi, 661 miliardi di dollari, che è pari al 43% delle spese sostenute in tutto il pianeta. Ci sono poi la Cina, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia, il Giappone, la Germania, l'Arabia Saudita e l'India. L'Italia sta al decimo posto con una spesa militare che è pari al 2,3% del totale. Però quello che è interessante è che, come segnala lo stesso Alberto Chiara, esaminando i dati del periodo che va dal 2000 al 2009, a livello mondiale la spesa per gli armamenti si è impennata. Il balzo in avanti è calcolato nell'ordine del 49%. Poi un istituto internazionale di Stoccolma, si chiama SIPRI, Istituto Internazionale di Stoccolma per le Ricerche sulla Pace, nota però che qualche paese ha messo mano alle forbici, e qui veniamo a casa nostra. Nell'arco di questi anni infatti hanno tagliato le spese militari il Giappone con un decremento dell'1,3%, la Germania del 6,7% e l'Italia, che può vantare una percentuale di tagli a due cifre, meno 13,3%. Per contro la Cina ha aumentato invece il suo budget, la Russia anche e gli Stati Uniti anche. C'è un problema poi in questi tagli, segnalato in queste pagine sempre di Famiglia Cristiana, perché spesso, come segnala Massimo Paolicelli della Rete Italiana per il Disarmo, i tagli colpiscono la formazione del personale o la manutenzione dei mezzi, ma nulla si fa per ridurre gli esuberi veri o per cancellare l'acquisto di costosissime macchine da guerra. Quindi spendiamo meno, ma non è detto che poi spendiamo bene, o che diciamo spendiamo a ragion veduta, perché naturalmente sull'acquisto di armi si può sempre avere un diverso parere. Tutta l'inchiesta e tutto il dettaglio di questi numeri, ve ne ho segnalati soltanto alcuni, lo trovate su Famiglia Cristiana di questa settimana. E allora torniamo un istante su Vanity Fair, perché abbiamo parlato di comparazioni internazionali per una questione abbastanza triste, quella appunto dell'acquisto di armi. Parliamo invece di felicità. Qual è il paese più felice? Quali sono i cittadini più felici? Ma secondo una certa ricerca che ha condotto Donato Speroni, che si chiama proprio I numeri della felicità, adesso è finita in un libro, lo segnala Vanity Fair, Speroni ha incrociato il PIL, il prodotto interno lordo pro capite di 151 stati, e poi un indice di felicità che esiste, lo elabora la Gallup, misura il benessere percepito. Allora, incrociando diciamo il benessere economico, il prodotto interno lordo, quindi la capacità produttiva, e il benessere che viene percepito dagli abitanti, risulta che il posto dove si sta meglio in assoluto è la Danimarca. In Danimarca c'è un buon PIL e un tasso di felicità abbastanza alto. Poi c'è la Finlandia, poi la Norvegia, seguono i Paesi Bassi, il Costa Rica, poi viene la Svezia e il Canada. Per arrivare all'Italia bisogna arrivare fino al 36esimo posto. Segnalo che questa classifica, su cui non voglio esprimere pareri, però contiene al 29esimo posto il Turkmenistan, che non è il primo posto che forse mi verrebbe in mente come nazione ideale dove vivere. In ogni caso, la Svizzera risulta invece ottava, mentre l'Italia appunto è 36esima, la Nuova Zelanda è nona e Israele è al decimo posto. È chiaro che qui l'influenza dei due fattori, cioè la combinazione tra il dato economico e il cosiddetto benessere percepito, è molto pesante, quindi potendo vantare, come dire, un'economia molto solida, molto in crescita, si può scalare meglio la classifica. E alla fine, diciamo, Silvia Bombino, che si è è occupata di realizzare questa segnalazione, spiega sinteticamente nel titolo: vado a vivere in Norvegia, perché questo sembra essere davvero il posto ideale, il posto dove più c'è equilibrio tra l'andamento economico e la percezione di benessere da parte degli abitanti. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Proviamo a cambiare la lingua del magazine. Adesso passiamo a una segnalazione che trago da Newsweek, perché forse ricorderete in qualche puntata fa avevamo parlato della poca convenienza a sposarsi. Era stata un'inchiesta, credo, dell'Espresso a segnalare come specialmente per le donne non ci sia convenienza a sposarsi. Lo stesso argomento ritorna, devo dire comincia a diventare un argomento ricorrente, su Newsweek, perché pare che siano in forte aumento negli Stati Uniti le donne che scelgono di non sposarsi. Addirittura nel presentare questa inchiesta, che è stata scritta da Jessica Bennett e Jesse Ellison, Newsweek mette questo sintetico titolo: io no, I don't, in lingua, quindi io no, io non mi sposo, perché? Per tutta una serie di motivi che poi vengono naturalmente analizzati in questo lungo articolo che occupa 3 pagine della rivista, ma io vi leggo qualche cosa qua e là che fa capire come ci sia un cambiamento complessivo nei comportamenti, nella percezione, nelle aspettative che si possono avere rispetto al matrimonio negli Stati Uniti. Ma forse, appunto, ricordando l'esempio che avevamo trovato sui magazine italiani, forse si tratta di una tendenza abbastanza comune nel mondo occidentale. Scrivono su Newsweek Bennett e Ellison: una volta il matrimonio aveva un senso. Era quel modo grazie al quale le donne si assicuravano una stabilità finanziaria, davano una possibilità appunto di mantenimento per poi i figli che sarebbero arrivati, e tra l'altro consentivano anche, questo in tempi non lontani va detto, l'accesso a una serie di diritti legali. 40 anni dopo, secondo appunto la ricostruzione che ne fa Newsweek, parliamo della realtà americana, 40 anni dopo ci sono stati il movimento femminista, ci sono state la parità sul lavoro, anche se tutta da completare magari per alcuni aspetti, c'è stato l'esplodere anche del tasso dei divorzi, scrivono le autrici, e il matrimonio è in un certo senso non più necessario. E proseguono poi spiegando perché oramai c'è una sostanziale tranquillità, indipendenza economica che può essere raggiunta anche al di fuori del matrimonio. Il matrimonio non comporta più appunto la sicurezza economica per le donne, con la constatazione che molto spesso i matrimoni non vanno a buon fine, perché gli americani, dice, hanno il tasso di divorzi più alto nel mondo occidentale, più o meno il 60% degli uomini e la metà delle donne hanno avuto relazioni extraconiugali, e questo naturalmente sta alla base di molte separazioni, ma proprio molti matrimoni non funzionano. Vi leggo qualche altro dato. Newsweek ha scelto di segnalare qua e là dei numeri per illustrare l'inchiesta. Uno studio dimostra che il fatto di avere un marito crea un extra di lavoro per le donne, per una casalinga, di 7 ore alla settimana, quindi fa un'ora in più al giorno. Questo non è naturalmente un buon argomento che può essere portato a favore del matrimonio. In Texas è lo stato che ha più persone adulte che si sono sposate 3 volte almeno, quindi hanno una certa coazione a ripetere per quanto non abbiano fortuna, e soprattutto una preoccupante differenza nella percezione sulla necessità del matrimonio. Allora si segnala che tra gli uomini compresi nella fascia di età 18-34 anni, il 75%, quindi 3 su 4, se vogliamo farla semplice, sono convinti che il matrimonio sia una istituzione necessaria. Nella stessa fascia di età 18-34, le donne che sono convinte di come il matrimonio sia un'istituzione necessaria, quindi non necessariamente il loro matrimonio, ma più genericamente il matrimonio, scendono al 63% contro il 75%. 1% degli uomini. E poi i comportamenti sociali che cambiano, perché come ricorda un altro grafico sempre qui su Newsweek, il 41% dei nuovi nati americani nel 2008 si è avuto al di fuori del matrimonio ed è la percentuale più alta che mai sia stata registrata. Infine, tanto per chiudere con un dato assolutamente negativo, entro 5 anni si scioglie il 20% dei matrimoni che vengono celebrati negli Stati Uniti. Quindi diciamo che uno, se si sposa negli Stati Uniti, ha il 20% di possibilità di lasciarsi entro 5 anni. Davvero non è un bel viatico, si capisce come le donne statunitensi comincino ad avere qualche perplessità su questo tipo di convivenza. Peraltro poi gli americani sanno sempre sorprenderci. Ho visto su Vanity Fair una curiosa nuova opportunità. Buon compleanno cucciolo, il nostro fedele amico compie gli anni, stiamo parlando di cani, tutti a tirargli le orecchie. La moda arriva dagli Stati Uniti, sbarca anche da noi e poi si danno anche i consigli per organizzare un dog party. E, tra l'altro, la cosa è più seria, è una cosa che va presa con una certa preparazione, perché come scrive Manuela Longo, bisogna anche stare attenti se si invitano altri cani per poter festeggiare questo compleanno appunto del proprio cane nella scelta, perché se è un cucciolo ad esempio si relazionerà meglio con i suoi simili, è l'opinione che viene riportata di Jessica degli Innocenti, che è un'esperta appunto di psicologia canina. Se invece il cane non è più un cucciolo, allora è fondamentale che i cani che vengono invitati a questa festa si conoscano già, soprattutto se la festa viene condotta in un territorio neutro che gli animali tenderebbero a contendersi. Quindi neanche per organizzare la festicciola di compleanno del cane si può improvvisare, bisogna stare attenti. Questa è la segnalazione della nuova moda che viene appunto dagli Stati Uniti, così come la moda o diciamo la riluttanza a sposarsi da parte delle donne americane, anche però la voglia di festeggiare il compleanno del cane. E a questo punto usciamo direttamente dal pianeta, dopo che ci siamo fermati per un po' negli Stati Uniti, perché su 24 lo sapete, da venerdì è in edicola, in vendita con Il Sole 24 Ore, ci si occupa come tema dell'altro. Naturalmente in questa definizione di altro non potevano mancare gli extraterrestri. Gli extraterrestri tra l'altro hanno avuto una popolarità molto forte anche all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo, proprio per una delle tracce della maturità dedicata agli UFO, agli oggetti volanti non identificati. E quindi Sylvie Coyod sul numero di 24 che trovate con Il Sole 24 Ore, trovate in edicola, si è esercitata in una complessa storia della ricerca scientifica della vita extraterrestre, perché insomma è un po' un'ossessione ricorrente, specialmente del secolo scorso e naturalmente prosegue in questo, da parte degli scienziati trovare un modo di relazionarsi con eventuali civiltà non terrestri. Scrive infatti la Coyod: schiere di astronomi, linguisti, matematici, filosofi da decenni si interrogano su come comunicare correttamente con un alieno per evitare equivoci. Intanto però vengono inviati nello spazio migliaia di messaggi in ordine sparso, oltre alle trasmissioni TV che potrebbero essere il nostro involontario biglietto da visita cosmico. Beh, speriamo che insieme alle trasmissioni TV passino anche quelle radio e magari chissà anche questo programma. Comunque dovete sapere, come riferisce la Coyod, che l'ossessione ha avuto anche Enrico Fermi, come Enrico Fermi, che appunto chiacchierando di UFO nel 1950 si chiese: ma allora dove sono questi extraterrestri? Cioè, se non siamo i soli ad avere una tecnologia avanzata, ma perché questi signori non ci parlano, non riceviamo segnali o visite da loro? Da qui poi tutti gli altri tentativi di mandare messaggi più o meno codificati per spiegare come siamo fatti noi e che non abbiamo nessuna intenzione ostile nei confronti di altre civiltà. La ricostruzione, la Quaid, poi chiude però segnalando come stiamo continuando a intasare lo spazio con successivi messaggi che forse potrebbero poi alla fine infastidire i nostri ascoltatori. Così non vogliamo fare, noi allora ci fermiamo qui. Io ringrazio Fabio Cantadori anche questa mattina in regia con me, grazie naturalmente ancora a Margherita Ina e a Vittoria Mussini. Magazine 24 vi dà appuntamento a sabato prossimo.